Cioè, che cos'è che non le torna in questa vicenda? Non ho capito bene. Non mi torna che avrei preferito, se voi fosse andati a scomodare, c'era una volta un personaggio della Lega simpatico, era il professor Miglio, che parlava. Sì, con lei sa che il professor Miglio è morto, sì. Sì, purtroppo non è mai stato sostituito, pace anche all'anima sua, non si è mai provato. È colpa nostra, però. Scusi, però Fabio, lei vorrebbe trasformare questa trasmissione in una discussione su Euradio, ma lei ci vuole morti, lei ci vuole morti. Lei ci vuole distruggere. Lei ci vuole distruggere, caro Fabio, ci vuole ammazzare. E poi, visto che ha fatto un esempio sbagliato, perché se lei ricorda, invece, il professor Miglia era proprio quello che faceva delle iperbole clamorose quando disse, ad esempio, che in Sicilia, per risolvere il problema della mafia, sarebbe stato utile una guerra civile in Sicilia. Anche il professor Miglio usava delle iperbole molto forti per esprimere i suoi concetti sul federalismo. Mi perdoni, lei ha centrato il punto. Io sono personalmente d'accordissimo con quell'affermazione. Cioè, un governo serio che avesse voluto risolvere quel problema in Sicilia si sarebbe dovuto presentare. Vabbè, Fabio, però insomma, io non ho capito dove vuole arrivare lei. Un'altra cosa che volevo segnalarvi, che temo che le vostre domande, voi siete purtroppo avete un limite, siete troppo intelligenti per i signori Parenzo, Borghezio e via dicendo, e quindi facilmente li mettete nel sacco, ma c'è tanta gente che ritiene, e io credo di essere uno di quelli, che ritiene di poter dire che le idee, i timori dell'invasione, invasione in senso. Vabbè, ma lei può avere tutte le idee. Certo, lei può avere tutte le idee che vuole. È il, come dire, sia il momento, sia attribuire queste idee a uno che ha ammazzato 70 persone. Cioè, non attribuire. Dire che le idee di questo tizio sono condivisibili. Non si può dire, non si deve dire uno che ha ammazzato 70 persone che le idee sono condivisibili. Non si deve dire. Perché comunque queste idee in quel caso. Non so se sia stato questo. Tra l'altro non so nemmeno se sia stato questo, perché secondo me poi non è stato questo, non è quell'idea che porta ad ammazzare, è la follia che c'è nella mente di ognuno di noi, che ci può essere nella mente di ognuno di noi. Eccoci qua, 20:48, con Paolo Casinaghi, nipote di Calderoli, lavora a Zelig, però per lavorare forse ha dovuto cambiare cognome. È cambiata la vita da quel momento? Ma cambiata vita forse è un po' tanto, però io ero più tranquillo, insomma, mi sentivo molto più sicuro di me su questa cosa, perché era pesante, anche se poi relativamente, perché il numero di articoli che è uscito su questa cosa è talmente alto che mi è servito poco. Parenzo, hai capito? Si vergognava anche un po' o no? Mi vergognavo. Perché si vergognava? Beh, insomma, non è che stiamo parlando di un cognome, nel senso. Calderoli ha fatto le sue sparate, come spesso fanno personaggi della Lega, per cui uno non è che può andarne a orgoglio. Non stiamo parlando di Socrate, cioè si vergognava del fatto che fosse quello della porcata, le sue sparate, la maglietta, insomma Calderoli, si vergognava di Calderoli, questa è un po' sì. Ma lei che rapporti ha avuto con Calderoli, cioè con Roberto Calderoli? Sì, è lo zio. Sì, di una famiglia numerosa, di una famiglia molto. 8 fratelli, per cui quanti nipoti? 27. Cioè, lei ha avuto rapporti praticamente nulli? No, sì, ci siamo frequentati anche parecchio, abbiamo lavorato insieme quando io facevo il dentista, abbiamo lavorato nello stesso studio. Anche lei è dentista? Sì. Ma quanti dentisti ci sono a casa Calderoli? 9. 9 dentisti? È una cosa pazzesca, cioè una sorta di eredità che si tramanda. Ma è il più intelligente dei fratelli lui? Cioè era considerato il più intelligente di tutti i fratelli, il signor Roberto Calderoli? Temo di sì. Cioè, in che senso teme di sì? Perché figuriamoci gli altri, dice lei. Dico esatto. Beh, tranne suo padre, immagino. Oppure considera... è una persona intelligente, sicuramente è intelligente. Poi il modo di relazionarsi dal punto di vista politico, ognuno sceglie il suo. Nella Lega in genere è abbastanza un marchio di fabbrica a fare le sparate per andare a prendere lo zoccolo duro. No? Da lui a Borghezio. Ma lei ha mai votato Lega? No, mai. Lega mai. Mai votata la Lega? Qualsiasi cosa, una volta ho votato anche Berlusconi, ma per la Lega non sono mai passato. Lo sapeva? Lo sapeva. Che poi lei ha vissuto un periodo anche con l'ex moglie di Calderoli, no? Sì, ma con tutte e due. Io ho vissuto con loro quando ho cambiato mestiere, sono passato da dentista ad attore, ho vissuto a Milano e a Roma, ero ospite loro. Senta, io voglio capire una cosa. Scusa, è una persona, è uno zio gentile, è uno zio buono, gentile. Che sì, fino a un certo punto. Sì. Fino a un certo punto, che significa fino a un certo punto? No, sì, erano rapporti formali, educati. Si veste malissimo, E una volta la sua attuale compagna, Anna Gancia, presidente della provincia di Cuneo, ci ha detto che si veste di un male pazzesco e soprattutto che bada un sarto cieco. Cioè, lei lo sapeva questa cosa, no? No, del sarto cieco no, pensavo non avesse specchi in casa. No, no, un sarto cieco. Un sarto cieco, una cosa pazzesca. Senta, però è abbastanza raro che uno addirittura arrivi a cambiare cognome perché il cognome lo danneggia. Beh, sì. Cioè, lei dice, nel mondo dello spettacolo chiamarsi Calderoli era una tragedia. Per me era faticoso, era, almeno io la vedevo, ai tempi la vedevo così, era un momento in cui me lo sentivo molto addosso, cioè mi sembrava molto evidente, mi presentavo come Calderoli, mi sembrava che tutti sapessero chi era e avrebbero fatto dei conti in relazione a quello, quindi anche perché ho vissuto da giovane gli inizi della Lega dove era un po' una carboneria, per cui bisognava stare nascosti, non dire niente a nessuno, ho un po' subito questa cosa e me la sono portata dietro anche dopo, perché ho detto preferisco fare tabula rasa, partire da zero, vediamo se ce la faccio da solo. E che risultati sono migliorate le cose? Devo dire, non mi posso lamentare, è andato abbastanza bene. Parenzo? Beh, voglio dire, il fatto adesso... Voglio dirimere una questione. Lei che ha vissuto insieme a Calderoli e a Sabina Negri, ci può spiegare i motivi, veri motivi di questa separazione? Aia, andiamo sulla querela. Che ne so, sulla querela, dipende. Dipende cosa mi scappa. I motivi della separazione sono stati la lontananza di uno dall'altro e praticamente ognuno aveva la propria vita. La relazione è franata per la distanza e perché ognuno aveva relazioni in altre città. Ma possiamo considerare Calderoli un intellettuale illuminato della Lega? Questo lo posso... Perché ride? Perché ride? Perché, perché lo dici in un modo particolare. No, ma perché? Ma diciamo così, facciamo un'altra cosa. Ma è vero che ha un piccolo zoo nel suo giardino di Bergamo? È stato vero, aveva i lupi e aveva, credo che avesse tentato anche di metterci le tigri nella villa, era fermamente intenzionato. Ecco, ma secondo lei è un uomo affascinante dal punto di vista estetico? Lei, ho visto nelle foto, lei è un bel ragazzo, eccetera, ma un uomo ormai del 72 lei. Ma voglio dire, Calderoli è un bell'uomo secondo lei, piace alle donne? Oppure... Può piacere, credo che abbia un suo fascino, è sempre piaciuto, ha sempre avuto delle signor belle Calderoli. Calderoli, una volta anche ospite alla Zanzara, signor Calderoli, te lo ricordi Parenzo? Sì, a Dro. Come no? L'ho portato, no, dove l'ho era? Portato? No, a Iseo. A Iseo Lago, te l'ho una cosa organizzata dagli amici dei Lettiani e te l'ho portato su un piatto d'argento. No, veramente l'ha portato Enrico Letta, l'ha trascinato dentro. L'onorevole De Micheli è stato. No, portato, l'ha trascinato dentro Enrico Letta e ci disse qualche frase sul napolitano, non mi ricordo all'epoca. Ha borbottato qualcosa del suo solito. Ma secondo lei, signor Calderoli, è a favore dei matrimoni gay? No, ma non è possibile. Signor Casiraghi, è a favore dei matrimoni gay? Ho fortissimi dubbi, perlomeno per quanto riguarda la parte pubblica e ufficiale delle dichiarazioni, perché in realtà quando io frequentavo Roma e Milano, gli omosessuali in casa ce n'erano parecchi, da critici teatrali importanti registi. Anche un regista dichiaratamente omosessuale è stato poi nella commissione cinema come regista. Calderoli frequentava un sacco di omosessuali quando... Ha un sacco, adesso è spinta in una direzione eccessiva, però sì, insomma, ce n'erano... Cioè nella Lega, per esempio, ci sono tantissimi omosessuali, come in tutti gli altri. Come in qualsiasi altro partito, sicuramente. Però faticano a venire fuori in maniera esplicita. Sì, la Lega purtroppo è partita con questo suo manierismo di un po' bergamasco, di omofobico. Di macismo bossiano. Fatica. Chissà quanti muratori leghisti si abbracciano mano nella mano sotto sicuro. Caro Casiraghi, a presto! Grazie, a presto, eccoci qui. Parenzo, abbiamo chiuso per stasera. Abbiamo chiuso con Paolo Casiraghi, fu Calderoli, non fu Calderoli perché crepato, perché si chiamava così. A lunedì 18:30. Ciao. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.